buonasera, buonasera Gabriele. No, ho alzato un po' i watt, però mi dà fastidio al... Aspetta, le abbassiamo. Dimmi se va bene 50 watt, guarda un po' se va bene, così non disturbo. 9, 9,35. Dai, da 9, 9,35. Belli, belli, eh. Vabbè, va bene così, sì? Sì, di meglio non credo che ci possa essere. Di meglio non credo che ci possa essere. Io, vabbè, pulita. Perfetta, perfetta. No, vabbè, ho abbassato il watt, sennò aumenta un pochino, ma non mi interessa. Sto andando con ola, circa 10 watt. 10 watt modulati tocca la soglia dei 40-50 watt. Però diciamo che va bene così, dai. No, io sto andando con i suoi, con tutti, sto andando con tutti, perché ho regolato anche il delay, ho regolato la soglia dell'LC, ho regolato il carrier, ho regolato diciamo un po' di cose, per pilotarlo senza processore, dai, a una distanza di 20 cm dal mic, proprio una modulazione rilassante, capito? Bene. Guarda ora, capi? Ora ti sto dando tutti i watt. Ola. Va bene, sta assorbendo anche un po' di elettricità al veicolare. Bene. 9,40, 9,40. 9,40 radio super 5, però devo ancora regolare un po' l'intensità del mic gain, perché a volte quando vado un po' fuori, adesso dovrebbe essere un po' più chiara la radio, e se ti dovessi accorgere di qualcosa, sì, fammi sapere. Dai, sono con 100 PS 4,50. Bene. Va bene, capito. Stavo chiamando poco fa, ma vabbè, sono stato per un po' in radio, un po' al PC, cercando di farlo connettere, perché la connessione è molto, molto lenta. Vabbè. Niente di che. Allora, ho scoperto che nell'MD100 ha un problema, sto usando il 60, ha un problema nel cavo di entrata dalla basetta, non quello che entra alla radio, ma quello che entra dalla radio verso il mic. Sicuramente vogliono fatti impiastati nuovamente i fili, perché a volte non fa contatto, credo. Sì, quello basta che ci vediamo e lo facciamo senza problemi. È un 8 pin, come può essere Kenwood, come può essere Icom, quindi magari c'è qualche cosa che sta... qualche falso contatto, quello è qualche falso contatto nel tuo microfono, proprio nel cavetto della capsula. No, Gavi, non nel cavetto della capsula, no. nella spirale che va dietro l'attacco della basetta. Adesso non so se te ne sei accorto, l'ho cambiato, guarda, ola, sembra che non stia facendo, sembra che sia sempre facendo, va. Sì, sta andando. Io non mi sono accorto che tu hai cambiato il microfono, proprio detto sinceramente, non me ne sono neanche accorto. No, sta andando bene, sta andando super bene. Secondo me qualche falso contatto, ripeto, sì, nella spirale, nel cavo a spirale, però a livello di filo della capsula, capito? Dalla basetta alla radio, qualche interruzione, strappata, forza di togliere, staccare, togliere, inserire, hai fatto, cioè c'è qualche falso contatto, quindi è opportuno aprirlo e controllarlo, perché è un peccato, anche se io non trovo differenze tra il 60 e l'M, meglio, vuol dire che la cosa è andata a buon fine. No, me ne sono accorto perché nello spostare ho provato, ho detto, ma come non sta uscendo il microfono? L'ho provato, ho staccato la spinetta, l'ho reinserita, niente, magari c'era un po' di ossido, quindi non ho, magari togliendolo, rimettendolo, quella pattina di ossido che si è formata, magari l'ho anche rimossa. Non ci ho pensato a mettere il pulitore per contatti, per dire la verità, però se sta andando vuol dire che ho risolto un pochino, dai. Sì, è perfetto. Ma tu non hai un cavetto per provarlo col cavo del microfono? No, io mi ricordo che ne avevo tre di cavetti, però due sono collegati, un terzo non, forse l'ho lasciato da Andrea, non mi ricordo, oppure boh, non lo so. No, non ce l'ho, questo qua non va bene al cavo. Perché bisognerebbe, dovresti fartelo, un riduttore da Kenwood a Yaesu. È una stupidaggine, devi solo invertire i fili, adesso non mi ricordo, allora, tra I come Kenwood cambia il pin 2 al pin 5, mentre negli AESU non lo so perché non l'ho mai avuto, quindi bisogna fare un attimino una ricerca e andare a colpo sicuro e vedere quali cavi, quali fili bisogna invertire. Dopo faccio, perché anche io ho problemi con internet, connessione lenta, è il maltempo che sta, scusa, tumore del QRA, però, che credo che lo pesca, però dai, te lo controllo e vediamo un pochino cosa si dice, vai. Sì, io senza impegno, tanto l'importante è che ho la possibilità di fare un cambio al volo per continuare a emettere. No, mi interessava, credimi, non sono riuscito a trovare quella finestra verde dove ci sono scritti tutti i numeri per poter fare l'ascolto, regolare un po' l'ascolto, dai. Devo vedere un pochino, ma il tempo molte volte non me lo permette. Ma tu sei a casa domani, sì? Hai qualche impegno? No, io sono a casa, non devo fare niente. Non so neanche se mi metto a tagliare legna perché sta piovendo, quindi ti puoi immaginare. Domani se non ti impegno vengo e facciamo questa cosa della ricezione, non prestissimo perché anche verso le 10, ora così, però se non ti impegno potrei venire e guardarlo, lo guardiamo senza problemi, io sono libero. Guarda, a me, anzi, sono io che sto impegnando a te se tu vieni, a me mi fa solo che piacere, lo sai. Così porto quelle punte anche, le proviamo, magari non proprio sul pezzo, ma su un pezzo di qualcosa, un pezzo di tavola, e vediamo quanta differenza c'è, che prima di fare proprio il lavoro, vediamo di farci una dima, una sorta di dima per la misura del foro. Aspetta, sì. Allora, no, io avrei anche la morsa, potrei, se le punte lo permettono, a forare questa roba qua, potrei anche provarci domani, ma tempo permettendolo, perché lo sai com'è, il tempo è un po', fino a poco fa stava piovendo, figurati. No, però mi interesserebbe fare più questo fatto qua, anzi, non so se te l'avevo mandato il link del tipo che tramite il selettore comandava la barra di sotto, la stringeva, la allargava per poter sentire meglio in ricezione. Sì, quello è una sorta di equalizzatore, sì, me l'avevi mandato, sì. È una sorta di equalizzatore per la ricezione. Migliora tanto la ricezione, perché attivi quelle frequenze, cioè quelle frequenze fastidiose che dei rumori di fondo, puoi eliminare, dai, tante opzioni. Cioè puoi avere tante opzioni per eliminare dei rumori. Ascoltati, mi dici più o meno il segnale con il quale ti sto arrivando? Guarda un pochino, prova radio test 1 2 3 4 e prova radio test. No, ma è sempre 9:20, 9:22, sempre così, Perfetto, quindi va bene. Sto sempre un po' andando a abbassare sempre il mic gain, perché mi dà dei picchi, hola, mi dà dei picchi di modulazione, a volte esce dall'LC, e adesso vado un po' ad agire sul carrier, vediamo un pochino, prova, guarda, adesso ho abbassato il carrier, adesso l'ho alzato, e prova, hola. Non ha cambiato niente. Non ha cambiato niente, mentre se io agisco sul PVR, vediamo un pochino, allora se io agisco sul PVR vado a fare così, hola, ok, adesso il PVR a metà, e sto andando in aria con 20 watt di picco, guarda, adesso sta ancora andando ancora di meno, PVR a metà, da un po', e prova, e adesso vado col PVR al massimo. Ha cambiato quel passaggio? Ha cambiato, sì, Gavì, si è andato da 9,5 a 9,22, quindi lo sbalzo c'è. Perfetto, adesso attacco il processore, ora un pochino, attacco, hola, guarda, processore attaccato, processore inserito, forse ho il mic gain anche un po' troppo basso adesso, e eccolo qua, processore inserito, guarda se era meglio con o senza il processore. No, no, va bene così, però devo dire una cosa, che un filtro io ce l'avevo inserito e un altro no, forse perché stavo ascoltando in altre bande, però non ho notato nessun tipo di cambiamento, No, sto parlando a livelli di segnale. Sto parlando a livelli di segnale, perché credo che la radio sia buona, che non sgarra. A me quello che adesso ti chiedo è il segnale, è la modulazione, perché sono dentro l'LC, vorrei capire se alcune volte va a saturare. No, 9:22, la radio è buona, perfetta, non lascia stare così, non tocca nulla, ciola, metti il chiodo. Se metto il chiodo poi, caspita, perde il valore, perché lo metto di quelli, forse con la pinzatrice, con la rivetatrice, è un rivetto di metto, lo faccio grigio. va bene. Io adesso ho abbassato nuovamente il watt e sta dando 10 watt modulate neanche, mentre invece se fischio va anche 100. 9,40, col fischio, col fischio si è arrivato 9,40. Guarda un attimino si è aumentato, aspetta, Forse è aumentato un pochino però, No, sempre 9,40, sì. Allora, diciamo la verità che stavo usando 80 watt, da 80 a 100 praticamente non cambia niente. Io, guarda, a me modulazione, se io vado a guardare la modulazione, mi sta dando picchi di 100 watt, sì. Modulati così sono sempre tra i 70 e i 100 watt, 70 e 100 watt, niente di, mentre in pausa, vabbè, lo sai, scende a zero, però modulando va dai 70 e 100 watt, tranquillo, bello, avevo anche la voglia di usarlo in banda sta radio, avevo anche la voglia, sì. Sì, ha voglia. Allora, vediamo un attimino se, guardami se cambio, Ola, 1, 2, 3, sì, allora, diciamo che, ho messo l'LC a manetta, non so se sta peggiorando cosa, Non ho visto nessun tipo di riscontro, sì. Forse, ma non ho visto niente, non ha cambiato nulla. Scusami se sono un po' nasino, ma ho un raffreddore di quelli fenomenali. Non ha cambiato nulla, vedo sempre lo stesso segnale, la modulazione è ottima perché non hai nessun rumore di fondo. Sembra che sei dentro una stanza da solo, tutto isolato e vai a prendere solo il parlato, capito? Non hai nessun tipo di rumore di niente, ci sei tu e la radio, non so se ti ho dato l'idea. Tu immaginati il buio dietro di te e la radio, parlando in una stanza 2 metri per 2 metri, non si sente niente, bella. Sì, perché ho fatto una prova, adesso metti orecchio questa modulazione qua, tieni presente come sto modulando ora, sempre molto rilassato, adesso ti faccio un cambiamento, Eccolo qua, il cambiamento è stato fatto, non so se te ne sei accorto, praticamente adesso DLC proprio si muove minimamente, al contrario di poc'anzi che era nella soglia della LC. Sì, forse al mio orecchio la radio l'hai schiarita ancora di più, un pochino, ma una cosa proprio devi starci attento, un pochino bassa, più bassa, ma attenzione, non bassa, un po' più, il termine giusto è un po' più soft, mi segui? È ancora un po' più soft, è ancora più bella, però non dispiace con la LC diciamo a dovere, non dispiace, è molto, ti ho cercato di fare il classico esempio della camera buia e tu dentro la camera con la radio, cioè per farti capire, per darti l'impronta di come mi sta arrivando, cioè proprio silenzio assoluto. Sì, va bene, no, è giusto per vedere un pochino io come, adesso l'ho messo a 30, ti ricordi com'era il Mickey Gain? L'ho portato a 50, la massima soglia della LC, senza processore, adesso invece è circa metà la LC, che il valore è di 30, mentre invece lo stavo utilizzando così poco fa, a 23, però ho visto che a 30, se non dispiace, lo lasciamo. No, lascialo Tino, lascialo, prova a inserire solo l'equalizzatore. No, l'equalizzatore c'è già. Il microfono equalizzato c'è già. Ti posso solo... aspetta un attimino. Allora, eccolo qua. Questo è quel processore, infatti mi aumenta molto la LC. Non esce dalla soglia, Non esce dalla soglia, però mi porta il watt a quelli che dichiaro, cioè 80 watt. La radio magari è troppo aggressiva ora. No, sì, no. La preferivo senza processore. Senza processore era meglio, Poi se la vuoi lasciare col processore inserito, attenzione che non è male. Attenzione che non è male, però se andiamo a prendere a fare un ascolto che, cioè, che ti voglio sentire con un effetto di hi-fi. Senza processore? Sì, l'ho tolto, c'è solo il microfono equalizzato. Capi, vado, mi chiamano, dai, devo mangiarmi una cosa e poi più tardi, se ne hai voglia di continuare, ci facciamo una chiacchierata, e facciamo le prove che vuoi fare. Al momento devo mollare. Ma non hai ancora cerato tutti? No, sono dovuto andare a prendere la Gabriele, quindi l'ho ritirato adesso dalla strada, che era in palestra, poi a vederci una partita di basket, è rientrato adesso, quindi è per mangiare assieme, dai. Va bene, dai, no, io, guarda, sono qua, sono qua che sto ascoltando una cosa, cioè stavo ascoltando una cosa, non in radio ma in internet. Però fai chiamata che sono, o chiami di là e ce ne veniamo qua di nuovo. Quando vuoi fai chiamata, dai. Ok, buona cena, fino a te QRA. Ehi, a dopo allora, dai. Ciao. Anche qua, eccolo qua, ci sono, sì, anche io, vediamo se entra Franco, se non è in girella, ma no, te lo assicuro, è in girella, sono a casa degli amici invitati, quindi metto se entravamo prima delle 9, che può darsi che si faceva una chiacchierata, dopodiché dovevo uscire. Ah, ok, quindi fuori. Vabbè, ce ne ascolteremo domani con lui. Vabbè, uia, caruttino. Qua non ci vuole un camion di fattorettini, qua ci vuole la fabbrica. Ma hai preso freddo? Il freddo, vento e acqua. di finocchietto. Quando ho detto che non distribuì è perché stavo facendo queste cose. Ah, ok. Però io devo fare un po' di Ramadan, un bel po' di Ramadan, perché devo fare delle visite, quindi Ramadan, e vediamo un pochino com'è. E poi dopo che farò queste visite me la tiro, te immagini? No, vabbè, io sono un po' restio, molte volte ci passo sopra, lo so, è sbagliato, però è così. Che cosa, visite? No, finché uno sente la necessità non ci vai, capito? Ah, ok, ok. No, io devo fare... Cosa ho, un rumore di fondo, sì? Appena appena. C'è Manuela che sta aspirando. No. Non sta aspirando. No, sento come una ventola. Beh, sicuramente la ventola dell'alimentatore. Sicuramente la ventola dell'alimentatore. L'avevo preso una silenziosa. È già silenziosa questa qua, però... il processore. Prova. Così è senza processore. Ah, sempre leggero c'è. Cioè. Allora per leggero è leggero, mettiamo il processore. Così tagliamo la testa al toro. No, stamattina la, ma stasera la prendere con la cosa che ti ho detto. E poi salto a fare le commissioni e poi a casa. Quando mi stavi chiamando e stavo cenando e attivavi una fame, ero un po' una fame di quelle affaticanti. No, io invece a pranzo ho mangiato, ho fatto gli hamburger, ne ho mangiato uno e basta, uno con una sorta di panino, quasi un panino e basta. Stasera, per dire la verità, ho mangiato per far compagnia, ma non avevo voglia di mangiare, solo che si siede, è logico che ti mettono il piatto, cosa fai? E ho mangiato un po' di pasta con sugo di cinghiale, e due pezzettini di cinghiale, così, ma sinceramente non avevo voglia, Io stavo per un paio di secchine fatte alla piastra, insalata, pomodorini, dai. Però leggero, niente pasta stanotte. E a pranzo ho fatto farino, a pranzo tu ci credi che non avevo fame, non vedevo l'ora di entrare in doccia. Poi sono uscito, non mi sono neanche appoggiato io oggi, non ho appoggiato testa perché sono uscito subito. E sono uscito che erano le 4:15, capito? Quindi fai cosa che lasciare entrata, le 4:15 sono uscito. No, io sinceramente, vabbè, a pranzo sì, avevo la voglia di assaggiarle, di assaggiare questi hamburger così. Infatti, ma era tutta la curiosità di provare una macchina, ecco, la macchina tritta carne che insomma ce l'aveva mamma, ma me l'ha data, quindi la curiosità era quella, provare la tritta carne. E poi vabbè anche la sensazione di fare, perché sono andato stamattina e mi ho comprato quello per pressare la carne, per fare gli hamburger dai cinesi, no? Non era quello che volevo io, però va bene uguale. Ho scoperto come utilizzarlo, sono usciti abbastanza compatti, ecco. Ebbene sì. Gavi, toglimi una cosita, guardami il segnale, quando io non parlo, a quanto arriva? Mentre quando parlo vediamo sino a cosa fa. Perché a me mi segna qua praticamente in portante bianca 0. Che c'è la portante bianca, non parlare, molla. Hai un segnale di 3 e modulato sale a 9:40. Segnale di 3 modulato sale a 9:40, però secondo te c'hai qualche alimentatore tu, qualcosa con una ventola, sta pescando quello. Sì, la radio stessa, è la ventola sua, lo senti? No, infatti stavo guardando qua perché senza segnale, praticamente, vediamo un po' se cambia, aspetta. Non cambia, aspetta, abbassiamo così, e però voglio fare un'altra cosa, aspetta, cambia qualcosa con questo affare qua inserito, un tazzino inserito, non so neanche cos'è. Non ha cambiato nulla. Beh, qua sì, è logico che qua non è una portante bianca, può essere AM o FM. Questa è una modulazione a impulsi, quindi sì, va importante, però prendi e non è una portante fissa di potenza. fatto, non sulla portata bianca. Il microfono mi ha abbandonato, hai visto? Sì. Quello è qualche falso contatto, non è roba di nulla. Quello è qualche falso contatto, ti bisogna aprire gli spinuti e controllare. Bisogna aprire gli spinuti e controllarli, o se no senza controllare gli spinuti, vedere col tester, prima di tutto. Poi se ci accorgiamo che col tester c'è qualcosa che non va, prendere, aprire, guardare le saldature. Può darsi che ce n'è qualcuno a sfida, facendo qualche falso contatto. Bene, guarda, vedi, è mancato, vero? Questo era sempre quello lì. Eccolo qua, aspetta. Ora, ho trovato l'inghippo. No. Ora, sto uscendo, vero? Sì. Ora. Allora, ho toccato, sì, c'è lo spinotto che entra nella radio. È lo spinotto che entra nella radio? Sì, però adesso voglio provare a vedere un pochino quando lo rifà e vediamo cosa è. Ora. Adesso non sta andando? Sì, sta andando. Quello è stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, attacca veloce, facendo qualche prova e ti si è strappato il filo del microfono. Il pin del capo microfonico. Beh, tranquillo al 100%. No, guarda. È che io lo so, questo, ora, era già così. Perché me l'ha fatto da subito. E allora chi ce l'aveva prima strappava invece di prendere lo spinotto, prendere dal capo. Sì. Però il problema è quello, il problema non è altro. Sì, è quello. Ho provato perché pensavo che era invece l'altro, quello che attaccava alla basetta del mic. Guarda una cosa, Gabriele, aspetta un attimino. Guarda un pochino se ha cambiato, se ti dà fastidio. Nessun fastidio. No, vabbè, ma dico, ha aumentato la modulazione, vero? Ni. Allora, lasciamo così, perché almeno abbasso il tono della voce, non cambia la modalità di emissione. Giusto per... Si pesca un po' più di rumore di sottofondo. La ventola, vero? Sono da solo, Sì, ti pesca. Vediamo, rumori prima, così se ne pesca prima, di più, guarda un po'. A 7, 8, capito? Ma sono uscito? Sì. Ah, sì, ce l'ho portata inserita. Ora, eccola qua. Si è intrippato il microfono. Aspetta, forse ho capito, questo microfono da controllare. È sempre importante. Aspetta. No, non è possibile. Il look? No, aspetta un attimino. Ah, eccolo qua, sì. Era il tastino di sopra del microfono. Adesso è rimesso quello lì, vero? Adesso ho rimesso? M100. Sì. Sta dando tipo un cavo che sta raschiando su qualcosa, sì. Ha qualche filo quella a fare lì scollegato, dai. Però aspetta, se lo fa qui, aspetta. Muovere. Guarda un po'. Aspetta un attimino. Guarda se cambia. Sta cambiando, così. Qua è sempre lo stesso. Si sente roba raschiando, sì. Cosa vuoi dica? Vuole fatto messaggio, perché non so da dove possa provenire, sicuramente dall'innesto che va alla radio. Questo è troppo alto come amplificazione? No, va bene. Niente di alto, niente di basso, tutto normale, tutto dalla norma, ti ascolto bene. Con questa tecnica di voce la distanza è illuminata. Ecco, poco fa ho sentito lì nella banda marina un po' di movimento, c'era. Del tipo? No, dico, stavano comunicando. Ah, sì, no, pensavo movimento di qualche intervento. No. È che l'ho sentito solo uno, l'altro non lo sentivo. Sicuramente sentivi, diciamo loro, la capitaneria. Il corrispondente magari non ti arrivava, perché può darsi che era con qualche portatile, perché loro hanno anche i portatili corrispondenti, quelli delle barche di qualche nazzante che può, diciamo, dal permesso VHF, hanno i portatili, non hanno antenne, non hanno, perché al porto di lì non è che sia ben vista l'antenna del VHF, quella te la prendono subito, quindi la gente stava attrezzando i portatili. Addirittura, perché te la prendono? Perché te la prendo? A chi gli piace? Perché gli piace te. Oppure le smontano ogni volta che escono in barca, le prendono e se le portano via. Perché ci sono molte barche che vanno a calamari, che hanno il CB, rimangono sul 24 loro. Certo. Per comunicare, ma io lo stesso, insomma, l'avrei messo, per carità. Mio padre, vabbè, lui ha il VHF nella barca che c'ha per andare a divertirsi. E poi al CB, ma non accende mai il CB, è sempre a VHF. Di professione esercita il pescatore hobbistica, il pescatore sta andando bene. Certo. Dico per come che tu prendi, sei scavatorista, il sabato e la domenica ti metti a aiutare gli scavatori. Credici, fidati. Cioè, capita, tanto vale che pide e ti riesci a mare, no? Certo, no, vabbè, ma dico, io anche quando avevo il gommone, l'intenzione di mettermi un CB, ce l'avevo sempre, ma poi ho detto, ma cazzo, tanto non c'è nessuno, cosa me lo metto a fare? Allora, io quando avevo la barca che andavo a pescare, che andavo a calamari, io sul 10 li ascoltavo, sul 10 li ascoltavo, sentivo, mi arrivava molto forte Giulio e Claudio, mi arrivavano molto forte Giulio e molto forte Claudio, tutti e due, gli altri no, però a mare, poi ti parlo a 4 miglia, alle scudi di San Gavino mi arrivavano Giulio e Claudio, tutti e due. Sando Tigre, quando entrava da Porto Torres era logico, però sto dicendo di Sassari, ma eravamo solo loro. Sandro era lì a Porto Torres, quindi sembra che non arrivava. Sandro era a Balai, e Daniele Motrice Passa, ecco, quei quattro. Sì. Claudio ha perso molto, Claudio ormai con la 27 credo che non voglia più entrare per il semplice motivo che è molto basso, ormai ha perso l'altezza, però se vuole si può difendere bene, perché è un buon amplificatore, quindi adesso lo sto provocando io, hai capito? Lo sto provocando, tanto non mi sta ascoltando, ma se dovesse ascoltarmi, ben venga che entri. Sì. il fatto che ha perso, il fatto là. Uno che sta invecchiando e adesso sarà già, magari sì, non credo sia ascoltato, però magari è già fuori cazzo, no? Perché è una mezza larva, è diventato un po' larva. Poi sì, ha bell'amplificatore, ma vivo pure un'antenna, ci vuole l'antenna, non è più come prima lui si affacciava alla finestra, metteva un vaso e lo sentivano anche a Macomer, a Bonorva, lo sentivano ogni posto, adesso non c'è tripa per gatti. Sì, ormai conta come due di picche, giocando a briscola, praticamente niente. Esatto, conta come un palo in mezzo al mare, non ci fa niente. E guarda che non accetta provocazioni, porca miseria. Non può farlo perché ha l'amplificatore dentro il mobile e vuole valvole staccate. Quindi tra aprire il mobile, prendere le valvole, l'amplificatore, aprirlo, inserirgli le valvole, perché poi anche mezzo non vedente ha la vecchiaia di sangue, può dare un problema alla vista, quindi andando a pulire le valvole di. Ci abbiamo fatto 4 QSO in cioè domani noi, capito? Quindi non è più. Dai, non conta più. Sì, ormai è vecchietto, poi in pensione adesso, quindi. Un altro mi. Vai. Allora, cosa sta dicendo? Ehi. Va vita, va a lavorare lunedì che mi devi dare la pensione tu a me, perché i soldi che ha versato lui se li hanno già spesi, quindi se noi non lavoriamo a lui non rispetta nulla, ma lui non rispetta niente. Questi nuovi pensionati che non rispetta più nulla, ma allora mi detto a rabidere chi già scalla anche lui. Va bene. Dai. Tanto davvero non si può fare il tendino. vabbè. È così. No, l'ha detto, l'ha fatto. Ma cosa ha detto e ha fatto? Che va a Lecce un buco? Altro che a Lecce un buco va a Chisso. Chisso va a due barapole a Lecce, via di cammino. Sì, non ho in dubbio che stia ascoltando, che no, vabbè, quello molta gente lo fa perché vuole conciliarsi il sonno e quindi magari si mette all'ascolto e va bene, ci sta. Però voglio dire, l'ha detto e l'ha fatto, nel senso che ha detto che non c'entrava più e non ci sta entrando, magari ascolta. Non ci sta entrando, come hai detto tu poco fa, perché ormai conta quanto in due di picche, quindi non entra. No, che ascolta, se ascolta già mi fa piacere che ascolta, così magari impara anche qualcosa. Ma ormai, vabbè, magari più avanti, non so, vediamo cosa. Sì. Allora sai cosa dico io? Come tipo fossia, noi non dobbiamo nessuno, qua ci sono anche argomenti molto interessanti, fino a prova contraria, Caruttino, si fanno delle prove, si parla del radio, si parla di tante, ci facciamo 4 resate anche, si cerca il più possibile di rispettare anche chi è l'ascolto, perché quando noi andiamo in trasmissione dobbiamo anche prendere e capire che si entra a casa della gente, anche se non è che sto andando a bussare io, attenzione, sì, non è che stiamo andando a bussare, sono loro che ci aprono la porta. Però visto che hanno la gentilezza di aprirci la porta, se qualcuno si ferma ad ascoltare in questa frequenza, noi dobbiamo cercare di essere il più educati possibile, come credo lo stiamo facendo già da un po' di tempo. Come credo che lo stiamo facendo già da un po' di tempo, a parte la battuta, a parte le cose, le fesserie, però, cioè le fesserie, a parte le battutine, le cose. Però credo di, credo che in questa frequenza l'educazione ci sia. L'educazione c'è e viene anche messa in pratica. Ma ci mancherebbe altro. No, vabbè, a parte che io sono sempre stato uno che ho sempre evitato di dire le parolacce e il linguaggio volgare in radio, l'ho sempre odiato, quindi anzi forse sono uno di pochi che quando sentiva parlare male le persone le riprendeva, ma riprendeva perché magari avevo aperto il canale io e quindi se permetti parli bene, se no te ne vai a parlare e a catteggiare negli altri canali. Sì, esatto, ma è quello che io sono qua tranquillo, non me ne frega niente di nessuno, non voglio sapere niente di nessuno e non voglio problemi. Cioè la cosa, credo che la cosa sia, cioè che tu sei lo stesso, Franco lo stesso, però alcune volte si sentono discorsi che sono un po' alquanto imbarazzanti direi io, carissimo Tino. Comunque Sparvi, se sei all'ascolto ti saluto e dai, passatela bene e non esagerare. No, io non lo saluto, lui mi deve tassativamente telefonare. Non vede, al telefono quello amico Brundi. Stamattina, quando è che l'ho telefonato? Non mi ricordo. L'ho telefonato a Luca per sapere una cosa di quella persona là, perché lui è più a contatto di me. Sinceramente c'era un casotto, non ha sentito il telefono e mi ha richiamato lui scusandosi che non ha visto la chiamata. Ha detto ma non c'è problema, ascolta, volevo sapere quando facevano quella cosa là, quella, come te lo posso dire, se hai capito va bene, per sapere così mi sarei avvicinato, capito?